Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo appuntamento di Honecker Hansen, la finestra sulla Germania di Senza Frontiere. L'ultima volta ci siamo lasciati con un gruppo siriano di hip hop che ci fa da punto ideale per l'argomento di oggi. Yasmin, the great voice. Yo, yo. حلب حلبنا بلدنا جئناك حلبنا قدمنا جامعة فنجولنا كالريح حلب حلبنا بلدنا جئناك حلبنا قدمنا جامعة فنجولنا كالريح عصفة انتي املنا فكنت فينا صبرا لمنا واحد هدفنا لتبقي انتي اولي نفنا ان كنت كنا فكنا فداك كنا فيك املنا فزدنا كرها نصيبنا هثرتي فينا عزيمة حتى غدينا جيشا عتيدة عنيدة صافيك مهيبة كسر سيوجة محطم قيودة مواصل حدودة مرفوعة الرؤوسة راسخ عليك مع كل ضرباته الجوية صبرا علينا سيأتي رد بالقريبة أهلا براموسة أهلا بحي الحمدانية رأسة حلبية العيون شباب المدفعية عملنا الغنية لحتى نذكر البقية حلبنا هي الحرية دايما وفية بلشنا من دوار حرية بالتحرية بالتحرية هذه الجوية خفنا طال الزحمة كمان من رجلنا كبرنا مليانة شوارع احنا بدون هوية كنا حلب يا قلب الوطن حكم فيكي فتك فتنا حكم بيكي بعزمة سبق لك مع حلب حلقة سلامة قتلنا نفس القصة عدد عرض علامة ان حلب فيها اي حدث حسن ده سواق سوريا من عالم رحلنا فيها شهداء جنية وطننا جنة عندنا اهل العزة على حلبنا حلب حلب ارحل عنا حلب حلب ارحل عنا حلب حلب ارحل عنا حلب حلب ارحل عنا حلب حلب ارحل عنا وراد البيبل. Infatti oggi vorrei un attimo parlare e riflettere riguardo quali siano i rapporti della Germania con quella che è considerata la rivoluzione siriana. È noto che i più attivi nella lotta all'ISIS sono stati i militanti dello YPG e dello YPG, ossia quelle milizie riferenti al PKK, il Partito Curdo dei Lavoratori. La guerra all'ISIS sembra volgere verso la fine. Il 10 novembre del 2017 l'esercito cattura l'ultima roccaforte dello Stato islamico in Siria. Però sono di questi giorni le notizie per cui gli scontri continuano in Iraq e anche in Siria. Infatti è del 19 novembre la notizia che l'esercito siriano si scontra ad Abu Hamal con lo Stato islamico. Rimangono aperte tutta una serie di tensioni legate a situazioni preesistenti in questo territorio. Da anni, i curdi cercano di ottenere l'indipendenza attraverso una lotta armata e che sono ostacolati dai governi dei paesi limitrofi, quali Turchia, Iran e Iraq, tra i principali attori. Ora, il problema è che con la fine del conflitto ci troviamo una divisione di territori molto particolare. Infatti, lo stato di Assad, che è lo stato legittimo siriano, ha conquistato una parte di territori probabilmente inferiore rispetto a quella conquistata dalle milizie curde nel nord della Siria. In questo modo si sono spostate le forze politiche in gioco e i curdi hanno ora dell'opportunità di rivendicare i propri territori. Purtroppo non mi è riuscito recuperare una cartina aggiornata del territorio siriano. La cartina più recente che ho trovato risale a gennaio 2017 e sappiamo che da allora la situazione è decisamente cambiata. Dicevamo che il nord della Siria è stato conquistato dalle milizie curde. anche con l'aiuto degli Stati Uniti, ma di questo vedremo più tardi. Thank you. la cosa più importante è che si sta cercando di attuare un nuovo modello di società, non basata sul centralismo statale, ma basato sull'auto-organizzazione cittadina. Quindi si cerca di sviluppare una democrazia dal basso, a partire dalla società reale, che superi i conflitti religiosi e culturali che sono presenti nelle città. Tra l'altro, una cosa molto importante è che invece di contrastare la struttura sociale preesistente, si cerca di analizzare quali fossero i fattori di emancipazione e di repressione e in qualche modo rafforzare quelle che erano delle pratiche all'avanguardia, come ad esempio le strutture collettive di paese, che sono dei veri e propri, delle vere e proprie assemblee cittadine in cui poi all'interno ci sono vari comitati, il comitato all'istruzione, all'economia, eccetera, eccetera, che agiscono partendo proprio dal territorio, da una conoscenza del territorio. Questo però non è il tema di oggi, anche se sarebbe molto interessante approfondire le pratiche democratiche nel territorio di Rojava. Comunque, per concludere questa parte introduttiva, vorrei aggiungere che oltre all'ostilità da parte dei regimi turco, siriano e iracheno, un altro problema è parzialmente portato dall'Iraq curdo con il regime di Bazari. Infatti il regime di Bazari è molto dipendente dalla Turchia e si pensa che dietro anche al referendum del 25 settembre ci sia una volontà turca per creare ancora più dissapori all'interno stesso della comunità curda. Infatti Bazari avrebbe fatto questo referendum per rafforzare la propria forza politica e porsi a leader dei curdi, contrariamente a ciò che invece sta accadendo a Rojava e ciò che vorrebbe il Partito dei Lavoratori Curdi, ossia un Kurdistan federale. È negli anni 60 che torna in auge la questione curda ed è in questa atmosfera di lotta che coinvolge tutto il mondo che nasce il PKK, che in quegli anni ha un grandissimo successo in Turchia ed è supportato non semplicemente dai curdi, ma dai turchi comunisti che vedono nella liberazione del Kurdistan la possibilità di una futura rivoluzione socialista in Turchia. Il Kurdistan è visto come vessillo socialista fino a quando nel 1980 un nuovo colpo di Stato colpisce la Turchia, il terzo a partire dalla seconda metà del Novecento. Questo colpo di Stato elimina in maniera definitiva le forze di opposizione di sinistra e reprime qualsiasi speranza autonomista del Kurdistan. Da qui le tensioni crescono fino a che negli anni 90, con la caduta dell'Unione Sovietica, inizierà una vera e propria guerra civile tra Kurdistan e governo turco, tanto che nel 1993 il PKK, che fino allora cercava di avere una politica di diplomazia, decide di prendere le armi e di lottare in maniera armata per la propria indipendenza. Un altro grande colpo alla comunità curda è la morte del loro presidente, che fino ad oggi rimane incerta, nel senso non si sa se sia morto per cause naturali o se sia stato ammazzato. La guerra civile in Turchia ebbe comunque delle ricadute anche in Germania, che come sappiamo è la nazione che presenta la più grande comunità turca europea. Quindi sul territorio tedesco si vedono scontrare gli emigranti curdi che sostengono gli indipendentisti e i turchi nazionalisti e si ha adito proprio a degli scontri a fuoco, le occupazioni delle metropolitane e il governo tedesco in questo frangente si pone dichiaratamente a favore della Turchia. Vedremo che tutt'oggi la situazione non è particolarmente cambiata. Cosa succede? Il governo tedesco regala alla Turchia svariati carri armati e armi per sopprimere l'insurrezione curda. Inoltre, a seguito degli scontri, il ministro degli interni Manfred Kanta del CDU decide di dichiarare illegale il PKK il 26 novembre 1993. Questo in realtà succederà un po' in tutta Europa, infatti il PKK è tuttora riconosciuto come organizzazione terroristica da parte di tutti i paesi europei e questo è avvenuto su richiesta sia della Turchia che degli Stati Uniti, che tornano anche qua e che come sempre hanno un ruolo doppio giochista nei conflitti armati mondiali. Quindi l'azione della Germania si può dividere in due parti, quella sul fronte internazionale col sostegno alla Turchia e quella sul fronte nazionale con la repressione dei movimenti curdi. Vengono proibite attività come dimostrazioni e festival che la comunità curda voleva organizzare a sostegno dei propri connazionali, attività che sono totalmente legali e quindi non avrebbero senso di essere proibite. oggigiorno la situazione non è molto cambiata. Nel marzo del 2017 è stato proibito l'esposizione di vessilli dello YPG e dello YPG e di altre organizzazioni curde combattenti. Delle persone che hanno pubblicato tali immagini sono state perquisite le case, dando così vita a una nuova onda di repressione e di criminalizzazione dei movimenti curdi. Quegli stessi movimenti che sul territorio di guerra poi sono supportati dagli Stati Uniti, dalla Russia e dalla stessa Germania, che ricordiamo ha avuto un ruolo attivo nell'addestramento delle milizie dei Peshmerga, ossia delle forze militari del Kurdistan iracheno, che hanno conquistato la città petrolifera di Kirkuk, un baluardo importante perché un importante giacimento petrolifero che i soldati iracheni avevano abbandonato e che i Peshmerga hanno riconquistato e che si tengono stretti. Oggi viene chiesto da tutte quelle organizzazioni che sostengono il movimento curdo di togliere il PKK dalle liste dei terroristi dell'Unione Europea. Inoltre la liberazione di tutti i prigionieri politici, in primis il capo del PKK Abdullah Öcalan e la fine del regime di terrore in Turchia e la conseguente fine della repressione del popolo curdo. Mi sembra importante oggigiorno perché viviamo un clima di terrore che viene instillato attraverso i media e attraverso i frequenti attentati terroristici, un clima di terrore che porta la popolazione verso tendenze di estrema destra, fasciste e razziste. E invece nessuno si ferma mai a pensare che chi veramente combatte contro l'ISIS e contro l'estremismo islamico sono gruppi di persone che credono nell'eguaglianza, credono nel rispetto reciproco che va oltre le culture e le religioni e che cercano di non strumentalizzare un sentimento umano come quello della paura e della paura dell'altro, ma anzi cercano di superare questo sentimento per costruire una società diversa. من زين ايامي لي نشكر الحار والمار عليه نصبر العمار رزاق معدودة الأقدر والدهر يعقب فيه لا نكسب رزقي صب الولع في عرقي ومن صار نصب جدل كل ما مقاطع من عتب من تقل ولا حد نشقي رحال الدنيا اخرى وبالخير نتذكر والحمد لله اذا نخديت حقي Mi è sembrato importante parlare di questo argomento perché ben spiega come spesso da parte dei governi si giochi un ruolo che da una parte in maniera istituzionale limita alcuni movimenti, in questo caso il movimento curdo, inserendolo nella lista dei terroristi europei, poi dall'altra parte si sfrutti tale movimento e tale organizzazione per interessi personali. Un interesse potrebbe essere quello di avere un'influenza in Medio Oriente. Le milizie sul territorio sono ben coscienti che l'aiuto americano arriva non tanto per motivi ideologici, ma per cercare di conquistare un territorio che ha un'importanza geopolitica fondamentale. Vedremo come continuerà la storia e l'esperimento democratico di Rojava. Sicuramente fa pensare il fatto che pochi giorni fa, il 14 novembre, alcuni cacciaturchi hanno bombardato le posizioni del Partito dei Lavoratori del Kurdistan nel Kurdistan. Le informazioni per questo servizio sono state da me raccolte in due incontri tenutesi a Berlino, uno organizzato presso l'auditorium SO36 da Rote Hilfe, Azadi Freiheit, da Tort Kurdistan, Civaka Azad e Solidaritätskomitee zu Wiederaufbau Kobane, e l'altro invece è stato raccolto nell'incontro per la connessione delle sinistre aperte, e tutti coloro che hanno parlato sono persone che hanno partecipato in maniera diretta alla rivoluzione siriana e alla costruzione dello Stato federale curdo nel nord della Siria. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Thank you. خوابیده هر دم دبر جاده منه بشمون هر دو بلیده بشمون هر دو بلیده دلو هر دو جار میرنه و دل دی خوازه و دیت ناده بزار در کتم شاگر کی ایوز کتمه آگریده رنگت دم کس ندی بر شیرین و خیمات.